Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo il mio blog sulla home page del Sole 24 Ore Online. Si chiama Guardie o Ladri, oppure lo potete trovare attraverso un motore di ricerca. Come sapete, da sempre su questo blog, così come sul Sole 24 Ore ormai da anni, tratto solo ed esclusivamente di illegalità e criminalità organizzata. E proprio di questo oggi parliamo, con un film che è in preparazione, che sta circolando su YouTube, mezzo molto conosciuto dai ragazzi, un po' meno da chi sale su con l'età, ma YouTube è un mezzo con cui fare i conti. Ebbene, su YouTube stanno circolando i trailer di un film in preparazione, un film che si chiama Il camorrista per bene, che è autoprodotto, e quindi il regista è lo stesso, è la stessa figura del produttore. Il regista è Enzo Acri, un film che farà molto discutere, poi sentiremo il perché. Ma prima di addentrarci nella discussione, sentiamo un trailer del camorrista per bene. Con questo business ne avremo due poteri. Uno, il ragamore, oramai sono 80 anni che sto mandando lì, guardi. E due, grazie a questo uomo, Alfredo Mariani, uomo del popolo, futuro sindaco di questo paese, il potere della politica. E ricordate, questa pinna a destra, cruda la capa d'unica. Quello che avete sentito è questo trailer che sta girando su YouTube, che fa molto discutere la stampa locale e non solo la stampa locale. Un film che dovrebbe uscire a gennaio. Avete sentito in questo spezzone un connubio che io reputo devastante, che purtroppo però è la realtà in molte regioni del sud e non solo: il potere della camorra, il potere della criminalità organizzata coniugato al potere della politica. Spesso in campagna le due cose si fondono, ma non solo in campagna. E poi questa figura retorica anche della donna che avete potuto cogliere in questo trailer. Allora, Enzo Acri, buongiorno intanto. Buongiorno a te. Allora, il Corriere del Mezzogiorno ha titolato recentemente Il camorrista per bene punisce i nemici come Robin Hood. È un giustiziere, insomma, questo camorrista per bene che attacca i clan, esce dal carcere, non ritrova più la camorra fatta di codice d'onore di un tempo e quindi scende in campo. Io personalmente lo trovo un messaggio devastante, dico subito la mia opinione, ovviamente. Trovo un'operazione del genere, francamente, posso usare un termine forte, che tanto lei può dire, come lo trovo ributtante come scelta. Ecco, mi convinca invece del fatto che il suo camorrista per bene possa esserlo davvero. Allora, volevo prima precisare una cosa, che io non sono il produttore, ma c'è la Record Film, che è la società di produzione, che è una società indipendente. Benissimo. E il film è Un camorrista per bene, ma non Il camorrista per bene, perché ce n'è più di uno, nella mia idea ce ne potrebbe essere più di uno. Benissimo. Perché un camorrista, no, il camorrista. Benissimo, quindi è uno tra i tanti camorristi per bene, secondo la sua visione. No, non ce ne sono. Nella fantasia nasce questo camorrista per bene, io ho chiamato un camorrista per bene tra i tanti camorristi. Ok. Il perché c'è di questa storia, che poi in realtà è una storia inventata. Certo, no, è una storia inventata, però su dei valori e dei principi che lasciano presupporre che la camorra abbia dei codici d'onore, insomma, che sia qualcosa di buono in principio, in origine, poi invece guastata nel corso degli anni da chi quelle regole non ha più rispettato. Francamente mi pare un film già visto, Acri, e soprattutto, ripeto, devastante come messaggio. Lei pensa al contrario, ma ci convinca del contrario. La volevo convincere. Allora, prima di tutto, cioè, in questo film io racconto la storia, diciamo, della camorra dagli anni 60 ad oggi, una realtà che esiste a Napoli, ma che a Napoli, come esiste poi in tutte le altre città, con nomi diversi, ma io, secondo le statistiche, la camorra in una città, nella nostra città, ne saranno un 3%, e io dico un 3% sicuramente non può infangare un popolo che la mattina si sveglia e va a lavorare. Ma lei non ha fatto un film sul popolo che si sveglia e va a lavorare? Un attimo solo. Il mio in questo film bisogna poi vederlo per capire il perché di questo messaggio. Il mio film nasce contro un film che di Matteo Garrone, Gomorra, dove io l'ho visto, dove ha infangato la città. Ecco, ma lei dice fa un altro film sulla Camorra, è lo stesso discorso. Se io avessi fatto un film che si chiamava Tortellini a colazione, la stampa non se ne sarebbe nemmeno interessata. No, ma lei ha perfettamente ragione, ma il problema a me non interessa tanto il fatto che lei abbia fatto un film contro un altro film, perché questa può essere anche un'operazione legittima nel dare una visione diversa. Al di là del fatto che a me Gomorra personalmente non è piaciuto e io detesto tutti i film che parlano di criminalità organizzata, perché non sono nient'altro che delle esaltazioni alla fine del guappo buono che non esiste. Ma io quello che contesto è che lei abbia potuto anche soltanto pensare che possa esistere un camorrista per bene. Un camorrista è per definizione un delinquente, un criminale. Come può essere per bene, Acris? Mi scusi, Posso farle anche io una domanda prima che vedo la risposta? Sì, me la faccio, anche se solamente sono i giornalisti che fanno le domande. Comunque accetto volentieri il gioco, mi dica. Perché tutti mi fanno questa domanda, io faccio prima la domanda e poi do anche la risposta. Benissimo, allora facciamo questo gioco, mi faccia la domanda. Allora, un camorrista viene definito camorrista perché fa delle cose illegali, uccide, fa tante cose che non sono per una legge. Ma io definire anche un politico non per bene, perché se un politico non firma una legge su un medicinale, in 15 giorni moriranno 8 persone. Sì, ma anche quello valuto un omicidio, cioè valuto una strage a quel punto. Sì. Però non viene calcolata perché è una firma da poter mettere. Il mio camorrista per bene invece è un personaggio di fantasia, un uomo che esce dal carcere, un uomo che si è fatto 20 anni di carcere perché ha avuto il suo clan, la sua camorra, è uscito dal carcere da napoletano, è disgustato da questo schifo che vede in giro, di questa criminalità oggi molto diversa da quello dei guaffi di una volta, dove c'era un rispetto, queste cose qua dove nemmeno più lui ammette questo tipo di camorra, di sporcizia che c'è in giro, e ripulisce la città, ma non per una sede di successo, non per ridiventare camorrista, ma i suoi sbagli li vuole ripulire cercando di eliminare quello che ha sporcato, che sta infangando Napoli. Questo è perché è camorrista per bene, non perché è un camorrista per bene, ma perché era un camorrista che all'uscita del carcere cerca di ripulire la sua città, perché ormai la vede sporca di tanta delinquenza. Allora mi scusi, che intanto io non ho capito qual è la domanda che lei ha fatto a me, perché io non ho ricevuto domande, ho sentito soltanto il suo monologo. Ma la domanda che mi voleva fare qual era, mi scusi? La domanda, mi ha chiesto, può esistere un camorrista per bene? Ecco. Può esistere un politico per bene? Ma io credo di sì, un politico per bene può esistere. Se poi un politico sbaglia, è giusto che sia indagato, o è giusto che sia anche condannato, è giusto che sia votato o non votato. Il politico per bene può esistere, perché la parola politica non è di per sé disdicevole, lo diventa nel momento in cui si commette un reato. Ora mi domando e le chiedo ancora, un camorrista è qualcuno che ha infranto delle regole in maniera più o meno grave, al di là del fatto che se è un camorrista ha sicuramente compiuto qualcosa di estremamente disdicevole, no? Allora, come si può contrapporre una schifezza di 20 anni prima, credendo che quella schifezza di 20 anni prima può essere e può avere un DNA di codici e di valori da contrapporre a una schifezza di 20 anni dopo? Mi scusi, ma non può esistere un camorrista per bene, Acri. È proprio, come dire, una contraddizione in termini. Come se io dicessi che esiste un 'ndranghetista per bene o un appartenente a Cosa Nostra per bene. Mi fanno schifo. Un mafioso per bene sarebbe la stessa cosa, è normale. Oh, ecco. E allora come si fa a dire? Ecco, perché è un personaggio di fantasia, no? Anche Robin Hood era un delinquente, perché rubava ai poveri per rubare ai ricchi per dare ai poveri. Ma comunque, se uno ruba, è un delinquente. Assolutamente d'accordo con lei. Robin Hood è davvero un personaggio di fantasia. La camorra, ahimè, è in realtà lo stato puro. Robin Hood è un personaggio di fantasia che è ovviamente un messaggio che vuol dire altro rispetto al personaggio di fantasia, ma almeno, voglio dire, qualche valore lo poteva avere, perché si contrapponeva all'illegalità. La camorra invece non si contrappone all'illegalità, si contrappone alla legalità, Acri. Di questo qui lei non è convinto? Certo che si contrappone all'illegalità la camorra. No, si contrappone alla legalità. Alla legalità. E allora come fa a esistere un camorrista per bene? Torniamo ancora a Bomba. Non esiste un camorrista per bene, è un personaggio di fantasia. Nella realtà non esiste. Nella mia fantasia ho voluto inventare questo personaggio per dare anche un messaggio ai camorristi o ai mafiosi di dire: una volta che avete visto che si è avete sporcato così tanto le nostre città. Cioè, io non posso usare una parola perché i camorristi la vedono come se fosse un'offesa. Pentitevi, non pentitevi allo Stato, ma pentitevi a voi stessi e cercate di ripulire quelle che state sporcando. Mi scusi Acri, ora dobbiamo fermarci un attimo, anzi dobbiamo proprio fermarci perché la puntata è terminata. Io intanto la ringrazio per il suo intervento, però dico ai radioascoltatori: domani tornate ad ascoltarci perché avremo una seconda puntata ancora con Acri e con un nuovo ospite. Ci fermiamo qui, grazie regia Fabio Cantadori, in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.